Senz'altro il mio pensiero va ai poliziotti, ma va come genitore, va anche agli studenti. Sono sempre stato molto rigoroso nei confronti dei miei colleghi che fanno queste cose. Visto dall'interno. Dei colleghi anche nelle politiche organizzative, insomma qui nel nostro paese chi lavora nelle forze di polizia viene reclutato attualmente dalle forze armate. Siccome che in Italia non c'è più... La leva obbligatoria, certo. Quindi secondo lei c'è anche un problema di formazione dei nostri agenti che sono in strada? Di formazione e anche di carichi di lavoro. Nelle forze armate c'è un rapporto amico-nemico. Le forze armate sono fatte per fare la guerra, non per fare, come dicono, la pace.